Vendo tutto di Matteo Caccia. Quando realizzi un tuo desiderio è un po' come se una parte di te fiorisse, cioè è come se finalmente potessi vedere con i tuoi occhi quello che avevi tenuto nascosto per un sacco di tempo. Sabato scorso mi sono lanciato da 4.000 metri e quello che dovevo vedere io l'ho visto. Vado avanti, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme, lo so, capita, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo 6 sedie. Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 7 maggio 2010, questo significa che mancano solo 7 giorni, una settimana esatta dall'appuntamento live in diretta dal Salone del Libro di Torino con Vendo Tutti. Ricordiamo però che Radio 24 è lì già da giorni prima, giusto? Da quando è che è la Radio 24? Da tipo dal giorno prima. Benissimo, il bello è che sappiamo tutti esattamente come stanno le cose. Radio 24 lì dal 13 al 17 di maggio, guarda, ce l'ho impresso qua. Vendo tutto però è lì alle 16 in diretta venerdì prossimo. E ho anche una buona notizia per voi, perché i tanto decantati Puff presenti allo stand del Padiglione 2, sto dando numeri a caso ma credo che siano giusti ragazzi, Padiglione 2 del Salone del Libro di Torino, Radio 24 avrà oltre alle sue panche soprattutto i Puff. C'è stata una soffiata, ho un insider chiaramente all'interno della radio, non posso farne né nome né cognome, però posso dirvi che la soffiata è che abbiamo l'immagine del Puff presente al Salone del Libro di Torino nello stand di Radio 24. Andate a vederlo sul Facebook del programma Matteo Caccia Vendo Tutto. Veniamo ad oggi però, perché l'appuntamento chiaramente... Ah, giusto, dimenticavo anche, c'è una guest star. Abbiamo avuto oggi la conferma che al Salone del Libro, in diretta insieme a noi, sarà presente Cesarina. Per chi se la ricorda, Cesarina era la pittrice torinese che ci ha chiamato l'altro giorno, plurisettantenne, però una donna ancora tutta d'un pezzo. Lei sarà presente, quindi non potete mancare anche voi. Ripeto, venerdì alle 16 in diretta dal Salone del Libro. Ma veniamo ad oggi, perché sono le 16:11 e oggi si parla di grandi follie fatte per i propri idoli. Oggi racconto una storia, continuo a raccontare la storia che è cominciata ieri, ve la ricordate? Ieri vendevo il tavolo e oggi vendo le 6 sedie che vengono con il tavolo. Queste sedie, questo tavolo li ho comprati quando avevo la casa ancora praticamente vuota e li avevo comprati da una ragazza che stava svendendo tutto. Svendeva tutto dopo che aveva finito una storia, non una storia qualunque, una storia con una... Non posso ancora dirlo, ve lo dico più avanti, con un personaggio molto famoso. È per questo che oggi all'8:00:24, 0024 oppure al 349-238-6666 voglio solo storie di lampi di follia, di tutte quelle follie che avete fatto per avvicinarvi al vostro idolo. Perché adesso, ok, siamo tutti maggiorenni, siamo tutti vaccinati, abbiamo tutti la testa sulle spalle. Però c'è stato un periodo nella nostra vita in cui tutti abbiamo fatto una vaccata, perché avevamo qualcuno che idolatravamo. Di solito sono dei cantanti, dei musicisti, però valgono anche attori, valgono calciatori ovviamente, valgono scrittori. E qualcosa, pur di avvicinarci a loro, pur di avere un contatto, poi in realtà il fatto è che fai di tutto per arrivarci, poi quando sei lì non sai mai tipo cosa dire o cosa fare, quindi finisce che dici ciao. Di solito quello che riesce a fare è questo. 8:00:24, 0024, 349-238-6666. Valentina scrive: io per avvicinarmi al cantante dei Rancid, chi sono? Sono un gruppo punk, mi pare. Ok, grazie mille. Ad un concerto mi sono fatta quasi schiacciare dalla folla. Volevo raggiungere le prime file, ma erano migliaia di persone che premevano e pogavano. Se mi avessi tirato fuori da lì un mio amico, sarei stata calpestata. Non avevo più forze, sensazione orribile. E poi è bello perché... e non sa nemmeno che esisto. Credo che Valentina appartenga ancora alla categoria follie per i fan. Cinzia: per la felicità della mia migliore amica, dopo un concerto sono salita sul palco e sono andata diritta dal cantante dicendogli: senti, la tua musica non mi piace, ma la migliore amica ti adora. Sono sveglia dalle 5, se mi fai degli autografi me ne vado a letto, visto che è già mezzanotte. Lui è scoppiato a ridere e siamo diventati amici addirittura. Però quella che preferisco è questa. Perché ci sono effettivamente dei personaggi che richiamano proprio una sorta di fanatismo collettivo. E uno di questi è Renatone. Uno di questi è Renato Zero. Elisabetta: seconda superiore, esaurisco le mie compagne di classe per organizzare la gita a Roma. Il secondo giorno, durante un trasferimento in metropolitana, io e altre 3 compagne non scendiamo con la classe e raggiungiamo Zerolandia. Il tendone, ai tempi era un tendone. Incontro con Renato Zero, che impietosito dal nostro stato, a pranzo ci offre la pizza. Non ci abbiamo dormito per parecchie notti per la gioia e per il mega cazzetto che ho ricevuto in seguito dalla nostra prof. 8:00:24, 0024 se avete storie di grandi incontri con i vostri idoli da raccontare. 349-238-6666. Veniamo invece all'oggetto di oggi e finalmente alla storia di oggi. Oggi vendo 6 sedie, sono quelle che vengono col tavolo che ho venduto ieri. Per vederle, radio24.it. Per sentire la sua storia, eccoci qua. Le sedie. 6 sedie impagliate, strutture in acciaio, sedile in paglia di lino, colore nero e beige. Dimensioni di ciascuna sedia. Larghezza centimetri 41, profondità centimetri 49, altezza centimetri 86. Dimensioni di ciascun sedile, altezza centimetri 46, larghezza centimetri 41, profondità centimetri 38. Ottime per la casa, l'ufficio o un locale pubblico e per chi non vuole rimanere in piedi quando la musica si spegne. Valore commerciale 87 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Insomma, alla fine non potevo stare in una casa completamente vuota. Almeno un tavolo e delle sedie mi servivano. E quindi seguì il consiglio di Federico e prese appuntamento con la sua amica che stava vendendo i mobili di casa, Veronica. Appuntamento alle 9 in Piazza Cadorna. Io ci arrivai con 5 minuti di ritardo pensando che tanto non era un problema, no? Le donne sono sempre un po' in ritardo. È una sorta di status che le rende desiderabili. Sì, perché l'attesa ha sempre a che fare con il desiderio. Questa mia stupida convinzione maschilista andò in mille pezzi quando, dopo aver parcheggiato la Vespa, alzai gli occhi e vidi una ragazza su una Smart che mi faceva un cenno con la mano. Per riconoscerci, io le avevo detto della Vespa e lei della Smart, perché alla fine, anche se era mattina, quello di fatto era un appuntamento al buio, no? Ecco, questa cosa dell'appuntamento al buio mi ha sempre un po' turbato. Cioè, è un po' la quintessenza dei luoghi comuni sull'apparire. Mi spiego. Tutte le cose che mio padre mi ha sempre detto riguardo al fatto di presentarsi bene, con un abito in ordine, i capelli a posto, che l'abito non fa il monaco, però almeno non lo lascia nudo. Insomma, tutte quelle cose lì, di quando incontri una persona per la prima volta. Sia per un colloquio di lavoro, sia per un incontro romantico, uno scambio di mobili, insomma, quelle cose lì sono vere. Cioè, il modo in cui stringi la mano, il modo in cui gesticoli, sono la cosa che rimarrà in mente al tuo interlocutore. E sono le cose che lui racconterà quando parlerà di te. Sì, hai presente, uno di quelli che stringe la mano mollemente. Sai quelle persone che gesticolano un sacco? Quindi, io già con Veronica ero partito malissimo per via del ritardo. Allora cercai di recuperare subito stringendole la mano con forza, ovviamente, e poi infilandola in tasca per evitare di gesticolare. Salimmo in macchina e partimmo verso casa sua. Io ero talmente concentrato su di me e sulle menate della prima impressione che solo in auto mi rilassai un po' e la guardai con più attenzione. Era una ragazza bellissima, alta, con i capelli scuri e gli occhi verdi. Parlava con un tono di voce molto pacato, rassicurante. Ai semafori gli uomini si giravano a guardarla, mentre io non sapevo dove guardare e controllavo compulsivamente il cellulare. Il viaggio durò tre quarti d'ora, perché la sua vecchia casa era in un paesino fuori Milano. L'aveva comprata 7 anni prima, quando lei e il suo fidanzato avevano deciso di andare a vivere insieme. Le chiesi se le piaceva la campagna e lei mi rispose di no, che preferiva la città. Allora le chiesi se lui, per caso, era del paesello dove avevano comprato la casa, ma si mise a ridere e disse che lui manco era italiano, era svedese. Però, per motivi di lavoro, preferiva non stare in città. Ecco, lì ci fu un silenzio innaturale, in cui io sentii che mancava un finale a questo dialogo e anche se poteva sembrare maleducato, le feci la domanda. Scusa Veronica, ma cos'era, un contadino? No, mi rispose lei. Lui era una rock star. But things are none too strong, Katie. Hurry up, Mrs. Brown. I can feel it coming down and it won't take none too long. But since you said goodbye, the polka dots fill my eyes. And I don't know why. Avete presente il film Sposerò Simon Le Bon? Hai sentito? Come, cosa? Che Simon si è sposato? Sì, sposato! Ma la moglie se moriva. Dite voi! Ma dai, coraggio, non ne sono sicuro! Sì, chiama Ornella, chiama Cecilia, chiama chi vuole! Ma fai presto, ti prego, perché qui stiamo diventando tutte e due pazzi! Ecco, la storia di Veronica è molto simile. Solo che lui non era il cantante di Duran Duran. Lui era il cantante degli Europe. Allora, stiamo parlando degli anni Ottanta, quelli più duri, quelli fatti di giubbotti di pelle, di capelli lunghi e arrangiamenti tipo pianola. Lei aveva 18 anni, lo vide e decise che lui sarebbe diventato il suo fidanzato. Lui si chiamava Joy Tempest. Era bello, biondo e con una voce cristallina. Ma soprattutto lui era quello che dai palchi di tutto il mondo urlava «It's the final countdown». It's the final countdown. E non solo, perché cantava anche questo. Ma soprattutto cantava questo. Insomma, ok, hanno un po' il sapore del drive-in la domenica sera o delle patatine fritte del Burghi, però erano sempre gli Europe, no? E lui era sempre Joy Tempest. E io ero sempre in auto con la sua ex fidanzata. Allora, com'è andata? La cosa era andata così. Durante una tappa di un loro tour italiano, Veronica aveva cercato l'albergo in cui loro stavano. Lo aveva trovato e si era finta giornalista per conoscerlo. Lui era stato molto carino, si erano scambiati i numeri di telefono. L'anno dopo gli Europe tornarono in Italia per il Festival Bar e lei lo aveva cercato ancora. Si erano visti e si erano innamorati. Lei per 6 mesi aveva girato il mondo con lui, tra concerti e presentazioni di dischi. Poi si erano lasciati ed era tornata in Italia. Lui però l'aveva cercata ancora, dopo lo scioglimento del gruppo, ed erano tornati insieme. E tra un viaggio e un altro stava con lei nella casa in cui stavamo andando. Ammetto, io ero stregato da questa storia. Cioè, un po' perché gli Europe appartenevano talmente tanto alla mia adolescenza che quasi credevo che non fossero mai realmente esistiti. E un po' perché ero affascinato dalla caparbietà e dalla determinazione di questa ragazza. Arrivavamo nella sua casa che erano le 10 del mattino, più o meno. Era un appartamento su 2 piani. Era chiuso da mesi. Alcuni mobili erano coperti con un lenzuolo, altri invece erano impolverati. Veronica aprì le finestre per far entrare aria e luce. E mi guardava in giro alla ricerca di qualche segno lasciato dalla rockstar. Ma niente. Non un disco di platino attaccato alle pareti, non una chitarra elettrica, ma anche una bottiglia di whisky abbandonata lì durante l'ultima festa. Veronica si accorse della mia curiosità e con il solito garbo mi fece dare un'occhiata in giro per la casa. Disse che lei ora viveva a Milano e che non aveva voluto portarsi dietro niente di questa casa. Aveva deciso di liberarsi di tutto. Le domandai se non era affezionata a questi oggetti, no? Che in fondo erano una parte della sua vita. E lei con il solito garbo mi rispose in un modo che mi spiazzò. Sai cosa? In fondo sono solo delle cose, no? Io non avevo ancora visto il tavolo con le sedie, ma avevo già deciso che li avrei comprati. Per il semplice fatto che il cantante degli Europe ci aveva mangiato sopra. Lei tolse il lenzuolo e scoprì il tavolo in cristallo con le 6 sedie e mi disse: eccolo qui. Ok, effettivamente non era proprio il mio gusto, eh? Però pensai che comunque mi serviva un tavolo in casa e soprattutto che avrei avuto una storia bellissima da raccontare agli ospiti che su quel tavolo ci avrebbero mangiato. 2 giorni dopo, il tavolo che ho venduto ieri e le 6 sedie che vendo oggi erano in casa mia. E mai, come in questo caso, posso dire che la loro storia è una storia che vale la pena di essere raccontata. Eppure, nonostante Veronica, nonostante Joy Tempest e la loro storia d'amore, anche queste 6 sedie sono in vendita. Il loro valore è di 87 euro. La base d'asta qui sono i soliti 99 centesimi. Per raccontarmi tutte le follie che avete fatto per incontrare i vostri idoli al presente o al passato, 80-0-24-0-0-24. Nel 76 sono andato col Ciao Piaggio da Verona a Lione in Francia e ritorno per vedere i G Trotal, Lucio da Verona. Nel 1998 a luglio andai al Tour de France, immagino, io ed un amico. Pantani in generale era indietro di oltre 3 minuti, ma noi partimmo da Udine convinti di andare a vedere l'impresa del secolo. E fu così, vinse con distacchi d'altri tempi. 10 ore di pioggia gelida e grappa friulana, ma fu epico per noi. Max da Dignano, 80-0-24-0-0-24. Sentiamo invece i racconti dalla viva voce di chi ha fatto delle follie per il proprio idolo. Andiamo, provincia di Caserta. Barbara, pronto? Ciao Matteo. Ciao Barbara. Trasmissione. Grazie. Ovviamente. Ma dove sei? Sei in macchina, Barbara? Sì, sono in macchina con la voce, quindi perciò mi sento un po' disturbata. Va bene, allora facciamo così, Barbara, vai dritta e raccontami tutto. Allora, io ero fan e sono ancora oggi fan dei Duran Duran, compro ancora i loro dischi. Ma è legale essere fan dei Duran Duran oggi? Ok, era brutta, vai pure. Anche perché praticamente questo gruppo è legato molto al ricordo di una mia cugina, con cui abbiamo fatto parecchie pazzie per conoscerli. Certo. E lei non c'è più, purtroppo, è morta molto giovane, a 18 anni. E quindi, insomma, pensare a loro ti ricorda un po' anche lei. Sì, in effetti per noi è stata una tragedia quando Simon si è sposato, tutto quello che stava nel film di Simon Le Bon. Eri tu, Barbara. Dimmi cosa hai fatto quindi per conoscerli. Sì, in effetti io ho tentato più volte durante i loro concerti di entrare nel retropalco per conoscerli. Mm-hmm. Alla fine comunque li abbiamo raggiunti a Fantastico, tentando di prendere i biglietti in tutti i modi. Fantastico. In modo tale da entrare. Alla fine, una volta che siamo entrati, quel giorno non era stato possibile conoscerli, siamo volati in Inghilterra. E fuori finalmente casa di Simon Le Bon abbiamo conosciuto lui e la moglie di Yasmin. E cosa gli avete detto? Quando l'avete visto? Cosa avete detto? Cioè, ciao. Sembrava un po' irreale, sembrava un fantasma per noi a quel punto. Però ci ha firmato gli autografi che io conservo adesso oggi gelosamente, ovviamente. Immagino, Barbara. Senti, quindi alla fine siete andati a Londra e cosa avete portato a casa? Un autografo. Va bene. Barbara, ti ringrazio, ti lascio continuare a guidare. Vai piano, dai, buona giornata. Ciao, grazie, anche tu, ciao. Grazie mille. Andiamo, provincia di Milano. Cuitim? Sì, sì. Si pronuncia così? Sì, Cuitim. Ma che nome è, scusami? Un nome è albanese, sono albanese. Ah, quindi... tu sei albanese, ok, perfetto. Sì, sono albanese. Raccontami, Cuitim, raccontami la tua storia. Allora, ero appena arrivato in Italia, avevo 7-8 mesi che ero arrivato. Uh-huh. E sono andato a vedere la partita del Milan, perché si fosse il Milan. Sì. E volevo incontrare Birov, perché da quando aveva vinto l'Europeo con la Germania, no? Certo, Birov, come dimenticarlo. E mi era entrato nel cuore, poi, vabbè, essendo anche giocatore del Milan, volevo incontrarlo. E cosa hai fatto, Kuitin, per incontrarlo? E dopo la partita, era la penultima partita, quell'anno il Milan ha vinto lo scudetto. E certo, anni fa mi ricordo. Sotto, sì, sono sceso sotto, sì. Sono sceso dallo stadio, sono sceso dove ci sono i parcheggi sotto, no? Sì. All'inizio non ci facevano entrare, poi man mano che passava il tempo la gente andava via, così alla fine ci sono riuscito a entrare. L'hai visto o no alla fine? Perché devo chiudere purtroppo. Certo, sì, l'ho visto, ho preso anche l'autografo. E la cosa bella è quello, come dicevi te, che quando sei lì non sai cosa dire. Kuitin, grazie mille, buona giornata, alla prossima. Volevo dire una cosa. Comunque la trasmissione è bellissima. Grazie. Sei un grande Radio 24, l'ho scoperto. È la migliore. Da solo. Grazie mille. E non l'hai mai. Neanche tu, Kuitin, tieni duro. Dobbiamo chiudere, siamo già in ritardissimo. Però questa la devo leggere. Non ho mai fatto pazzie per alcun personaggio. Però ho fatto le corse per vedere di persona Sebastiano Barisoni a Schio l'altra settimana. Poi mi sono seduta in ultima fila, perciò l'ho visto pure poco. Grazie a tutti, lunedì vendo una canna da pesca. Voi godetevi il weekend e noi ci sentiamo lunedì, magari un po' più leggeri di oggi. Ciao!